Radio 24 Reportage. Destinazione Tokyo 2020. Le farfalle della ritmica volano verso il Giappone. Di Dario Ricci. Regia di Valeria Bernardi. La loro meta, come per quella Madame Butterfly esaltata dalla voce dell'immensa Maria Callas, è il Giappone. Le chiamano infatti le farfalle per la leggiadria dei loro movimenti, ma loro sono gli occhi delle tigri per la determinazione e la fame di vittoria che puoi leggerci dentro. Sono le ragazze della nazionale azzurra di ginnastica ritmica che anche a Tokyo andranno a caccia del podio olimpico. Cinque atlete, due esercizi, uno con cinque palle, l'altro con tre cerchi e quattro clavette, 5 minuti in tutto, in gioco i sacrifici di un'intera carriera. In testa ritmo, tempi di esecuzione, posizioni da rispettare, coreografie. Sul viso stampato un sorriso che deve essere più forte di qualsiasi fatica e qualsiasi emozione. Questa è l'Olimpiade per le nostre farfalle, che a Tokyo inseguono quell'oro sfiorato ad Atene 2004, fu argento, e a Londra 2012, arrivò un bronzo. A Rio 2016 ecco invece un amaro quarto posto. Alessia Maurelli era in pedana in Brasile, ci sarà anche in Giappone, ma con un ruolo ancora più decisivo. È decisamente diverso per me, perché arrivavo a Rio con 3 anni di esperienza nella squadra nazionale e fra le più piccole, fra le più giovani del gruppo. Ora arrivo a Tokyo con la mia nuova squadra, perché io la definisco mia, perché dopo le Olimpiadi di Rio sono diventata la capitana, quindi per me sarà un'Olimpiade, ma con il sapore diverso rispetto alla scorsa Olimpiade. Quindi io e Martina Centofanti affronteremo questa seconda Olimpiade con una squadra nuova, una squadra giovane, una squadra che ha le prime armi, ma non alle primissime, perché abbiamo già 3 mondiali insieme, 2 medaglie d'oro, e 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo, quindi insomma non siamo proprio le ultime. Quindi sarà un'Olimpiade sicuramente molto avvincente, perché anche la concorrenza è cresciuta rispetto agli scorsi anni, però è un'Olimpiade che vogliamo vivere da protagoniste, appunto come è stata anche quella di Rio, perché quel quarto posto un po' rosicato ci ha lasciato forse quella grinta giusta poi per arrivare fino a qua con la voglia di rifarci. Sulla scia della capitana anche Martina Centofanti è pronta a fare da guida alle compagne che saranno invece alla prima esperienza olimpica. Io ero molto giovane, quindi ho affrontato le Olimpiadi con diciamo una maturità ben diversa da quella che ho ora, e dopo lì abbiamo riformato io e Alessia questa nuova, cioè non è che l'abbiamo riformata noi, però diciamo siamo diventate un po' le veterane del gruppo e abbiamo cercato di trasmettere alle nuove ragazze tutti i valori, e sicuramente è un gruppo molto molto unito, e sia fuori che dentro la pedana, quindi questo aiuta moltissimo, e niente, cercheremo di lavorare al meglio verso Tokyo. Dura la vita nell'Accademia di Desio, la casa delle farfalle che sognano Tokyo. Disciplina e sacrificio quotidiani sono alla base di quel sogno, spiega ancora Martina Centofanti. Ci alleniamo 8 ore al giorno, 8-9 ore, dalle 8 all'1 la mattina, ci facciamo una parte di preparazione fisica e poi di danza classica e poi la parte sull'esercizio del primo attrezzo. Poi c'è una breve pausa pranzo e il pomeriggio ci alleniamo di nuovo fino alle 6 lavorando l'altro esercizio. Poi dopo il secondo allenamento c'è chi va a scuola, poi c'è la fisioterapia e ecco, ricomincia poi la giornata il giorno dopo. Quindi sì, sicuramente sono giornate piene, però ecco, noi siamo qui, questo è il nostro sogno, quindi assolutamente non ci pesa per nulla, anzi ci sentiamo onorate di essere qui, perché molte persone al nostro posto vorrebbero essere qui. Sacrifici che iniziano presto, come racconta Agnese Duranti, classe 2000 da Spoleto, Umbria. Io a 13 anni in realtà sono partita per la squadra nazionale junior, che è stata diciamo la mia prima esperienza in campo internazionale. Dopodiché appunto l'anno successivo sono stata convocata qui in squadra a Desio e mi sono trasferita ufficialmente a 14 anni insomma in accademia. A dettare tempi e ritmi del lavoro quotidiano, ecco Emanuela Maccarani, alla guida delle farfalle dal 1996. Il lavoro è lavoro e quindi questo non è un hobby, questo non è un divertimento. E quindi c'è grande attenzione, la severità, ma non credo che loro la considerino neanche severità, cioè è un metodo e non puoi pensare che alle 8 del mattino delle ragazze della loro età possano tirare 8 ore da sole motivate con un semplice forza, cominciamo, facciamo. Qui occorre anche tirarle, occorre anche motivarle e talvolta a loro serve una guida, insomma, abbastanza di polso. 4 anni fa Agnese Durante aveva vissuto i giochi attraverso gli occhi delle sue compagne. Stavolta toccherà a lei essere protagonista in pedana. Diciamo che ho vissuto Rio da riserva. Ero la più piccolina del gruppo e vedevo le altre ragazze, tra cui appunto il capitano Alessia Morelli e il suo braccio destro Martina Centofanti, che ai tempi erano le più giovani della squadra, e le vedevo là che preparavano questa Olimpiade. Io ero nell'altra pedana ma sognavo con loro un grande risultato. Ovviamente ora provarlo sulla mia pelle è un'altra sensazione, un'altra emozione, e so, perché loro ce lo dicono sempre, che l'Olimpiade è una gara a sé. E la magia di quella pedana, la magia del villaggio olimpico, quell'atmosfera che si crea appunto nel villaggio il giorno delle Olimpiadi è una cosa che puoi provare solo in quel momento e riesci a capire quanto è bella proprio provandola. Niente meno della perfezione è concesso per poter legittimamente aspirare a un oro olimpico. E allora ogni dettaglio diventa fondamentale, anche il trucco per mascherare fatica e sofferenza ed esaltare invece eleganza e fascino. Simona Nappi, make-up artist di Bionic, ci svela qualche segreto. Sicuramente un trucco long lasting, perché loro, diciamo, si muovono tanto, quindi possono sudare, possono appunto sciogliersi, tra virgolette, e rispettando sempre la pelle sensibile, che poi è la nostra filosofia. E poi diciamo che andiamo un attimino con colori sì soft ma comunque evidenti, perché loro stanno a una grande distanza dal pubblico, quindi c'è necessità di enfatizzare un po' più gli occhi piuttosto che le labbra, che molto spesso tendono ad annullarsi totalmente. Suggerimenti che la capitana Maurelli accoglie ben volentieri. Facciamo veramente le prove generali su tutto, anche sul capello e sull'occhio, e l'occhio vuole la sua parte e anche nel nostro caso può fare la differenza, quindi un trucco deciso automaticamente ti rende anche più decisa, e quindi uno sguardo alla giudice un po' più convinto e un po' più forte per noi può essere decisivo. Dettagli che faranno la differenza insieme a quella creatività tutta italiana, che è il marchio di fabbrica della squadra guidata da Emanuela Maccarani, che ha messo a punto coreografie ed esercizi sulle note di Ninja di Maxim Rodriguez e Tree of Life Suite di Roberto Cacciapaglia. Congiunzione ideale proprio tra Italia e Giappone. Intanto mente e cuore volano già a Tokyo. Alessia Maurelli, da buona capitana, pensa già alle parole che dirà alle sue compagne prima di entrare in gara. Io sono fatta così, di solito non mi preparo mai niente, perché è uno sport molto di sensazioni e di emozioni, quindi ad esempio nel mondiale di quest'anno, prima di vincere la medaglia di bronzo nella finale di cerchi e clavette, ho guardato le ragazze e ho detto: noi possiamo farlo, noi siamo queste e noi dobbiamo salire su quel podio. Quindi poi dipende un pochino da gara a gara, quella medaglia la volevamo e la dovevamo vincere, quindi chissà a Tokyo cosa dirò. Poi eccolo, il momento di mettere il piede su quella pedana magica. Se chiudo gli occhi e penso a Tokyo, vedo quei cerchi olimpici, quella pedana che sembrerà luccicante, che brillerà di luce propria, e io penso che sarà in qualsiasi caso un'emozione che proprio ho i brividi ora, proprio a pelle. Entrare con le mie compagne sarà magico, sarà unico, sarà un'esperienza che ricorderemo a vita, che tramanderemo ai nostri figli, che poi tramanderanno ai loro figli, quindi